madamina, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio, un catalogo che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna sono già 1.300. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesine principesse, e van d'ogni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1.300. Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, contesse, baronesse, marchesine, principesse, e vanno ogni d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. La piccina, è ogni orbezzosa, è ogni orbezzosa, è ogni orbezzosa delle vecchie fa conquista per piacer di porle in lista. Sua passion predominante e la giovine principiante non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta, se sia bella, purché porti la gonnella. Voi sapete quel che fa, voi sapete quel che fa, pur che porti la gonnella, voi sapete quel che fa, voi sapete, voi sapete quel che fa.